140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Sulla scena rap il nuovo nome è Danny Lahome. Esce col primo album Curriculum. La garanzia? Lo producono i numeri 1, Fedez e J-Ax. Mi racconto, sì, sono Danny, ho 27 anni, vengo dalla periferia di Milano e al momento faccio il rapper, per fortuna. Ho iniziato a fare rap tra i banchi di scuola, con i compagni, a fare le prime rime. Ho iniziato a fare le canzoni, a registrarle e sai che ho iniziato a registrare le mie canzoni in camera, in cameretta, e quando ero piccolino. E mi sono messo... Ho aperto l'armadio, ho messo dentro le coperte, mi sono comprato un microfono, una scheda audio che ho attaccato al mio fantastico Mac portatile di allora e ho iniziato a registrare lì, nell'armadio. E anche un po' smesso di studiare perché ho letto che poi sì, no, con perché la scuola tipo in terza non è superiore, benissimo. Dopo che mi avevano bocciato, l'avevo rifatta e a un certo ho detto, ehi, ciao, non fa per me, e me ne sono andato. E hai fatto un bel po' di lavori, come spesso gli artisti. Sì, ho fatto un sacco di lavori, ho montato le antenne sui tetti, ho portato le lavatrici su per le scale e le installavo in casa. Ho installato... installavo i decoder allora, mi ricordo. Pensa. Poi cosa ho fatto? Ho lavorato in fiera. Quindi mi svegliavo alle 5, tornavo a casa all'una di notte. Poi mi risvegliavo alle 5, tornavo a casa all'una di notte. E andavo in giro per l'Europa a montare gli stand. Ma poi ho fatto altri mille lavori, tipo l'imbianchino, elettricista, aiuto, cantiere. Tutto fatto nella vita. Poi la svolta come arriva? E intanto appunto facevo i miei demo, li mettevo su internet, che nell'ambiente hip hop si chiamano mixtape, e li mettevo in free download, mi sono fatto un sito dove si potevano trovare gratis, uno se li scaricava, se li ascoltava. Poi facevo i video, li mettevo su YouTube. Questo ha iniziato a portare, mi ha portato delle seratine. Poi a un certo punto mi ha chiamato Fedez, un mio caro amico, e niente, da lì sono andato in tour con lui. Fighissimo, abbiamo fatto tipo 8000 date, tutte super sold out, super swag come si dice tra i giovani. Poi sono andato ad Amici. E questa cosa non è scontata, nel senso che ormai rap, hip hop sono abbastanza sdoganate nei talent show. Sì. Però dall'altro punto di vista la scena e chi frequenta quegli ambienti rompe le scatole. Esatto, non li accetta tantissimo. No, rompe le scatole perché la scena è molto integralista. Cioè non so perché, comunque io dico, io faccio il mio rap, lo faccio come piace a me. Io vado in paradiso. È un'avventura, scavo nei miei sogni con le mani. Quando il corpo è tra quattro mura, lo spirito fa viaggi più lontani. I ragazzini col cervello in fuga, cervello in fuga. Ci sono due cose che vengono spesso contestate al rap da chi lo guarda da fuori. Uno, i contenuti violenti. Due, che tu non è violenti. Siamo due cose diverse, cioè non è. E due, la tendenza maschilista. C'è però questa Cosa intendi per tendenza maschilista? Allora, il fatto che ci siano poche donne a farlo e che nei testi le donne vengono spesso trattate un po' malino. Tu però cerchi la fidanzata, com'è che è? Allora, io nei miei testi le donne non le tratto male, però ho un sacco di ragazze nei video. Non so se quello è maschilismo. Mi piacciono le ragazze e le metto nei video, quindi penso che non sia maschilismo. E sono anche un sacco in costume, quindi vi consiglio di andare a vedere i miei video. Mi piacciono le ragazze in costume. Vabbè. Cerco una fidanzata in costume. Vabbè, fa caldo. Fa caldo, comunque sì, qua fa caldo. Il rap parla molto della società, lo fa in termini suoi e con certo. Il linguaggio suo, ma lo fa molto. E soprattutto io lo faccio con i miei termini e il mio modo di fare, sempre così, allegro. Ma nonostante quello dice qualcosa di concreto, che è tipo... Bella l'Italia, che figata, però, non se guaglia. Rapporto con i social? Perché i ragazzi ti Morboso. Rischiano tantissimo. Ah, Morboso, assolutamente sì, sono un sacco attaccato ai miei social perché mi piace un sacco vedere quello che mi scrivono i fan, anche i non fan. Anche i non fan, sì. Perché, perché commerciale, comunque... venduto... Raccomandato, ti danno sì. Tanto del raccomandato. Raccomandato, ti spiego una cosa, ecco. Che hai in anteprima. Ti spiego, io sono entrata ad Amici e purtroppo ho fatto uscire questi ragazzi che sono gli extra, che hanno detto che io sono raccomandato. E ti dico una cosa, ieri sera ho incontrato gli extra e ti dico che sono... dei patatoni, no. Cioè sono dei bravissimi ragazzi, li ho incontrati a Milano che c'era un concerto che sono andato a vedere e quindi è stato un momento, io capisco che comunque la rabbia di uscire possa farti dire certe cose, pensa che rapper sono, nemmeno faccio il dissing, no, ma è cioè, vero, ma, ne... sono... ma sei troppo buono, sono troppo buono, ma che rapper sono? Sono un raccomandato con tanto di francobollo. La gente di parlare non si stanca mai. Stanno tutti a giudicare quello che fai. Io quello che ho me lo merito. Io quello che ho me lo merito. Cosa ti meriti? Perché me lo merito è un titolo molto bello. Sì, me lo merito è un... non vuole dire il successo che ho me lo merito, ma quello che ho me lo merito, che sono due cose diverse. Cioè quello importante che mi sono creato. Questo anche come messaggio. Sì, perché non voglio sembrare spocchioso, ehi, cioè il successo me lo merito. No, quello che mi sono creato fino ad oggi, semplicemente con il lavoro che ho fatto, ho un mio percorso che mi ha portato a questi risultati. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Danny Lahome. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.